Salutone a tutti e tutti, è decima puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la trasmissione di Radio Wombat che si occupa dei fatti che accadono nella periferia nord-ovest di Firenze. Fatti raccontati da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Interviste, dirette, interventi, tutto lunedì alle 13.30 in diretta e dal martedì al venerdì sempre alle 13.30 in replica. Passaggio a Nord-Ovest e tutte le trasmissioni Radio Wombat li potete ascoltare in streaming sul sito wombat.noblogs.org. Nello stesso sito le informazioni e notizie sulla radio e i podcast delle trasmissioni precedenti. In questa decima trasmissione parliamo di uno storico cinema di quartiere che è rimasto al di fuori della logia del multiplex e quindi siamo qui con Sandra, la responsabile del cinema di Castello, e gli chiediamo innanzitutto una carta d'identità del cinema, la capienza, come si effettuano ora le proiezioni e anche la durata da quanto c'è questo cinema e via dicendo. Allora, questo cinema c'ha quasi 100 anni e è stato sempre gestito in maniera volontaria, quindi è sempre stato inserito dentro il circolo e quindi gestito sempre con volontariato, tuttora è gestito a volontariato, cioè tutto il personale che ruota intorno all'organizzazione e al mantenimento dell'apertura del cinema è tutto personale volontario. Ha avuto ovviamente periodi di alti e bassi, molti anni fa fu fatta una scelta di fare un cinema diverso e quindi di fare il cinema de sé, per cui molte pellicole, ormai non ci sono più comunque, non passano da qui e siamo conosciuti per un tipo di programmazione un po' particolare. Molti vengono infatti a cascatola chiusa, vengono e basta, si dice tanto ci sarà sicuramente un bel film, questo ci fa, diciamo, onore rispetto al lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni. Quindi vengono, oltre che per la programmazione, per il film che c'è in programmazione quella sera lì, anche diciamo per il tipo di cinema in cui viene proiettato il film. Ci vengono anche per l'ambiente, perché questo è un ambiente particolare, non è un ambiente di cinema dove uno entra, va alla cassa, paga il biglietto, entra dentro, dove è tutto molto asettico, cioè qui il pubblico si conoscono tutti, fanno salotto, a volte tocca entrare in sala e dirgli oh beh ora basta perché bisogna fare il film, non si può più stare a chiacchierare e quindi niente, si comincia il film, insomma, ecco. E questo è, diciamo, il nostro punto di forza. È il punto di forza che ci ha fatto raccogliere una discreta cifra qualche anno fa per il passaggio al digitale. Abbiamo lanciato una sottoscrizione pubblica e c'è stata una risposta veramente, io, sorprendente, perché io mi aspettavo una certa risposta perché conoscevo il pubblico, ma non in questi termini, insomma, ecco, sono stati raccolti quasi 30.000 euro, che sono a forza di 20 euro, sono tanti soldi, quindi vuol dire che molte persone hanno partecipato a questa sottoscrizione. Sono prevalentemente abitanti del quartiere o vengono, diciamo, dall'intera città, insomma, anche dalla periferia? Sono del quartiere, sono della città, sono della provincia, addirittura di fuori provincia, perché qui viene gente che quando vede che c'è un qualche titolo di interesse che sa che magari non arriverà lì vicino, prende la sua macchina e viene al cinema qui. Poi magari approfitta, magari mangia anche qualcosa presso il ristorante viene a passare la serata qui, e così, in un ambiente, diciamo, accogliente, familiare, non bello esteticamente, perché purtroppo questo non può dipendere neanche da noi perché non è nostro, ora fa parte del demanio comunale, però è sicuramente accogliente umanamente. Si può dire che è l'unico o tra i pochissimi cinema di Firenze e provincia strutturato in questa maniera. Dalle notizie che ho, credo che sia rimasto l'ultimo sulla piazza, sicuramente su Firenze, perché gli altri due che c'erano, anche se il girone è Fiesole, non è Firenze, ma insomma, diciamo, lo consideriamo Firenze perché è proprio alle porte della città, sia il girone che San Quirico ormai non hanno più un'autonomia di programmazione, ma vengono programmati dagli uffici e dagli uffici della distribuzione. Ci fermiamo un pochettino e ci ascoltiamo un pezzo musicale suggerito direttamente da Alessandra. Lei è Janis Joplin, il pezzo è Cry Baby. Come on, I'm coming for the mama now. riprendiamo l'intervista e quindi c'è anche un'arena all'aperto, prima ti avevamo chiesto quanti posti sono, cioè se la porta è chiuso, c'è l'arena all'aperto in cui se eventualmente piove si può essere trasferiti, diciamo, è chiuso e quindi una programmazione continua, diciamo, durante tutto l'anno, ecco. Spettatori, caratteristiche tecniche della sala, della proiezione? Allora, la sala chiusa c'ha 150 posti e all'aperto sono quasi 200. Da 2 anni a questa parte abbiamo acquistato un secondo proiettore per l'arena, perché il primo anno abbiamo preso quello che avevamo comprato per le proiezioni al chiuso, l'abbiamo portato fuori, fu un'estate terribile e non faceva che piovere e abbiamo assistito a una cosa incredibile, secondo me, cioè gli spettatori a vedere il film sotto agli ombrelloni, perché gli ombrelloni di gelato invece che per fare ombra sono serviti per ripararsi dalla pioggia per finire di vedere il film, perché non era possibile passare da fuori a dentro. Ora invece, dopo l'acquisto del secondo proiettore, ci sono 2 sale attrezzate autonomamente, per cui in caso di maltempo il film viene spostato da fuori a dentro. C'è qualche film di cui sei particolarmente contento, orgogliosa di aver dato ultimamente, qualche episodio particolare? Ma film se ne fanno tanti, non ce ne sono, diciamo, alcuni di più, alcuni meno. Cioè, abbiamo programmato dei film molto particolari che però non hanno avuto una gran risposta di pubblico, devo dire, però secondo me andavano comunque fatti. E com'era il resto della domanda, scusa? Qualche episodio, qualche rassegna. Ci sono anche, ho visto delle attività pomeridiane con le scuole. No, abbiamo fatto alcune proiezioni per il sabato pomeriggio per i bambini. Poi stiamo facendo ora un giovedì al mese i documentari. Presentiamo una serie di documentari, o una serie di documentari o un solo documentario a seconda della durata, chiaramente. E abbiamo in previsione per la stagione successiva, quella che inizierà da ottobre, di occupare i giorni, diciamo il mercoledì e il giovedì, con attività anche alternative, che potranno essere o la proiezione di opere non in diretta, quindi a dei costi illimitati, perché chi va a vederle nei cinema dove vengono proiettate in diretta dalla scala paga dai 12 ai 15, 18 euro per vederli. Insomma, noi li faremo probabilmente gratis, non lo so, però faremo dei DVD, insomma, ecco, quindi poi faremo sempre una volta al mese faremo il documentario. Una volta al mese faremo intenzione di presentare dei film, diciamo così, che hanno meno mercato, come si suol dire, dei distributori piccoli che non riescono a uscire su Firenze, perché Firenze è, come si suol dire, una piazza chiusa, non è una piazza dove, cioè, non essendoci più cinema indipendenti, ma essendo tutti legati alla grande distribuzione, non c'è più possibilità di, diciamo, di infilarsi per fare qualche proiezione. Per cui, ecco, diciamo, una volta al mese una cosa di questo genere. Una volta al mese vorrei proporre del teatro comico, perché ogni tanto bisogna anche divertirsi, non si può stare sempre a piangere. E poi, non lo so, il posto è aperto, diciamo, e noi siamo sempre disponibili ad ascoltare proposte che abbiano però una fattibilità e che chi le propone abbia anche la volontà di seguirle, insomma. Quindi, nonostante lo strapotere dei multiplex dal punto di vista delle sale cinematografiche, delle grandi catene cinematografiche, ecco, conglomerati cinematografici, dal punto di vista della produzione dei film, il cinema di Astello resiste e ha una prospettiva, un futuro, insomma. Esiste perché è particolare come ambiente, come dicevamo prima. Chi viene qui di solito al multiplex non va, perché non sopporta di vedere il film in mezzo ai popcorn e non sopporta di dover stare, anche se sono in cinque, di dover stare in quel posto lì perché il computer ti ha assegnato quel posto. Insomma, qui a volte è capitato che con la sala piena io sono entrata dentro e ho detto, beh, c'è un posto lì, fate in modo che questi due che sono una coppia si possano sedere accanto. Su, e tutto il pubblico si è mosso, si è girato e quindi, diciamo, ecco, qui succede questo. La gente viene per questo. Cinema dal volto umano, insomma. Sì, è un cinema. È un cinema, ma è un luogo d'incontro. Potrebbe essere qualunque altra cosa, ma diciamo sarebbe comunque strutturato come luogo di incontro e di confronto tra le persone, insomma, dove le persone vengono qui, magari si sono visti per tanto tempo, poi alla fine si scambiano il numero di telefono, vanno a cena insieme e diventano anche amici. E ringraziamo Alessandra, responsabile del cinema di Castello. Finisce qui la 10ª trasmissione Passaggio a Nord-Ovest, che potete ascoltare tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.30 o tramite podcast andando nella sezione apposita di Radio Wombat. Passaggio a Nord-Ovest si prende una pausa tecnica e quindi non andrà in onda la prossima settimana, ma riprenderà più viva che mai lunedì 22. Vi aspettiamo. Ciao ciao!